Renzi ha addirittura elogiato Mohammed bin Salman, ha parlato del grande principe bin Salman, addirittura ha parlato di un nuovo rinascimento riferendosi all'Arabia Saudita, di un paese leader in Medio Oriente e nel mondo, e partecipava a questa conferenza di un think tank che si chiama Future Investment Initiative. È abbastanza incredibile che Renzi usi questi termini, che poi si rifanno un po' a tutta la retorica dei repubblicani negli Stati Uniti, di Trump, che ha sempre elogiato l'Arabia Saudita. In realtà l'Arabia Saudita è uno dei paesi della regione dove è costante la violazione dei diritti umani, non è permessa nessuna forma di opposizione politica, non è permessa nessuna manifestazione del dissenso, sono costantemente violati i diritti dei lavoratori. Questo è molto importante perché uno dei temi che è stato toccato da Bin Salman in questa conferenza, in questo video che è diventato virale, è proprio il fatto che l'Arabia Saudita sta investendo in infrastrutture, in investimenti, in turismo, in crescita economica, e proprio perché c'è un costo del lavoro basso. Ricordiamo che in Arabia Saudita c'è uno sfruttamento costante di manodopera straniera, di migranti sottopagati senza alcun diritto, che vengono trattati come dei veri e propri schiavi in quel paese. Poi un'altra cosa che dovrebbe ricordare Matteo Renzi è che l'Arabia Saudita è il paese che ha perpetrato l'assassinio di Jamal Khashoggi, che è questo importante giornalista del Washington Post, che è stato fatto a pezzi il 4 ottobre del 2018 nel consolato saudita di Istanbul, proprio perché scriveva degli articoli critici verso la monarchia saudita. Ma non solo questo, c'è molto altro, perché l'Arabia Saudita e i businessmen sauditi sono considerati tra i principali finanziatori del terrorismo internazionale, in particolare del terrorismo legato al cosiddetto Stato Islamico, e quindi anche questo è una delle gravi accuse che possono essere imputate al regime saudita. Ricordiamo che l'Arabia Saudita si è attivata come vero e proprio attore controrivoluzionario quando sono scoppiati i movimenti del 2011 in piazza Tahrir, ma anche in altri paesi della regione. Ormai sappiamo che sono passati 10 anni, e se c'è stato un attore che ha impedito a questi movimenti di avere successo, di arrivare ad un vero cambiamento, è proprio Riyadh, è proprio l'Arabia Saudita. Sono arrivati miliardi di dollari al Cairo che venivano proprio dal regime saudita e hanno finanziato il colpo di stato militare del 3 luglio del 2013 di Abdel Fattah al-Sisi, che poi, come sappiamo, ha perpetrato repressione. Lo stesso stile di Mohammed bin Salman l'ha portato in Egitto con la repressione politica che conosciamo bene. In questo, diciamo così, curriculum c'è anche la questione della guerra in Yemen. E questa è una questione centrale, perché poi è stato il motivo per cui le Nazioni Unite, e si spera anche il Parlamento Europeo presto, e tutte le istituzioni e gli organismi internazionali vorranno fermare la fornitura di armi ai sauditi, non solo all'Arabia Saudita ma anche agli Emirati Arabi Uniti, perché missili e bombe saudite sarebbero state utilizzate, sono state sicuramente utilizzate nel sanguinoso conflitto in Yemen. Ricordiamo che l'Arabia Saudita è impegnata nel conflitto in Yemen in una guerra per procura che è simile a quella che è presente in altri paesi, pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria, in questo caso contro le milizie sciite Houthi che si trovano nel nord del paese. Sono state fatte varie dichiarazioni dalla Rete per il Disarmo, da altre organizzazioni non governative italiane, non solo, perché c'è stato deciso uno stop preliminare alle armi saudite proprio per il fatto che in Yemen l'Arabia Saudita commette crimini contro l'umanità. Questo stop riguarda 6 diverse autorizzazioni che erano state già sospese nel 2019, e quindi si tratta di missili, di bombe per un valore di 411 milioni di euro. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte a un regime sanguinario, che però non è soltanto l'Arabia Saudita a fare la guerra in Yemen. Quindi è evidente che anche gli aiuti militari che vengono forniti per esempio all'Egitto, pensiamo alle 2 fregate FREMM per un valore di 1,2 miliardi di euro, pensiamo agli accordi che sono stati firmati l'8 dicembre del 2020 che includono 24 jet M346, Eurofighter Typhoon, 20 navi di pattugliamento, satelliti militari che sono stati voluti dall'Italia, evidentemente anche quelli dovrebbero rientrare in questo bando alle forniture di armi, perché anche l'Egitto è impegnato nella stessa guerra per procura in Yemen. Un passo che è stato deciso prima di tutto da Joe Biden, che sappiamo è subentrato a Trump il 20 gennaio scorso, e le prime decisioni di Biden sono state proprio la cancellazione del Muslim Ban e una revisione della politica in tema di immigrazione, cioè la questione del muro tra Stati Uniti e Messico, e poi il congelamento della vendita di armi all'Arabia Saudita, la revisione delle forniture di armi per miliardi di dollari agli Emirati Arabi Uniti, che erano poi i 2 pilastri della politica di Donald Trump. Quindi evidentemente tutto questo per dire che le dichiarazioni di Renzi arrivano in un momento in cui si sta rivedendo un po' la politica estera, non soltanto italiana ma anche degli Stati Uniti, appunto, e speriamo presto anche dell'intera Unione Europea, nei confronti di un paese che non solo viola costantemente i diritti umani, non solo è tra i finanziatori del terrorismo internazionale, ma anche tra i paesi più attivi nella guerra in Yemen, che è una catastrofe umanitaria che ha provocato migliaia di morti civili. E poi ricordiamo anche un'ultima cosa riguardo proprio a questo atteggiamento di Renzi nei confronti degli autocrati, che non riguarda solo l'Arabia Saudita, ma riguarda anche gli Emirati Arabi Uniti, il Kazakistan, la Cina, l'Egitto. Secondo questo reportage che è stato pubblicato dal quotidiano Domani, Renzi riceve circa $80,000 l'anno per questo suo impegno nel board di questa Future Investment Initiative, quindi evidentemente proprio pagato, finanziato dai regimi sauditi. Quindi si capisce bene che poi quando c'è da criticarli non lo voglia fare. E la stessa cosa è successa probabilmente nel 2016, quando è scomparso, poi è stato torturato e ucciso Giulio Regeni, e sappiamo che l'Italia non ha reagito subito. Infatti ci sono queste dichiarazioni in un'udienza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso da parte di Matteo Renzi, che diceva di aver saputo la notizia tanti giorni dopo, cioè 6 giorni dopo, e poi è stato smentito dalla Farnesina. Quindi evidentemente l'atteggiamento di Matteo Renzi è un atteggiamento condiscendente nei confronti dei peggiori autocrati, dei dittatori più sanguinari della regione, e evidentemente questo non ha mai giovato alla politica estera italiana.